Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, nei giorni scorsi si è molto discusso di un tema che ha lanciato la ministra per l'istruzione Valeria Fedeli, che ha sdoganato l'uso dello smartphone nelle scuole, e questa occasione ha riaperto il dibattito sulle nuove forme di comunicazione, soprattutto sui nuovi strumenti che le rendono possibile, a partire naturalmente dagli smartphone e dai social, con tutte le indubbie opportunità ma anche con gli enormi problemi, pensiamo per esempio alla crisi dell'informazione che ne derivano. È un tema di cui si discute molto, che affronta anche il mondo della musica, come ha dimostrato Francesco Gabbani nella sua canzone Pachidermi e Pappagalli, di cui sentiamo adesso alcune battute. Lo sai che tutto il mondo è chiuso in un display, il DNA dell'umanità viene da lontano, che ogni tre respiri sciogli due ghiacciai, il telefono ci spia, sono della CIA, il silenzio è d'oro. Sai che Gandhi era un massone, su un'invenzione, e che Adolfo si è salvato, il Titanic ma è affondato, le catastrofi naturali, tutta colpa dei templari, scie chimiche e marziani, rettiliani, oh my darling. Insomma, un dibattito che non appassiona soltanto i più anziani, ma che evidentemente anche i giovani cominciano a sentire, pur continuando a usare tranquillamente i loro smartphone. È una testimonianza intergenerazionale della diversità sostanziale di questi due mondi. Ci viene da un libro scritto da un padre, che è un famoso giornalista, Aldo Cazzullo, con i suoi figli Francesco e Rossana. Il primo è uno studente universitario, la seconda una studentessa di liceo, che discutono del tema in Metti via quel cellulare, un papà, due figli, una rivoluzione, pubblicato da Mondadori, 196 pagine, 17 euro. Il libro è scritto principalmente dal padre, che rivolgendosi ai figli denuncia i rischi di un uso smodato dei cellulari. Non è possibile, dice ai figli, che quando andiamo in pizzeria, anziché i vostri volti, mi veda sempre davanti i vostri cellulari. E i figli gli rispondono insieme, uno per volta, con dei lunghi box, così che il libro assume la forma più che di un dibattito, di una tavola rotonda a tre con frequenti interruzioni e rischio magari di perdere il filo del ragionamento. Si rivela il libro, dicevo, come una discussione pacata e argomentata da ciascuna delle due parti, al termine della quale il padre deve riconoscere la capacità dei figli di tenergli testa, senza peraltro rinunciare alle proprie perplessità, pur nella finale consapevolezza che ormai quella che gli considera una degenerazione sia inarrestabile. E quindi, rassegnato, promette per Natale l'iPhone 7, salvo scoprire, dai figli naturalmente, che ormai siamo all'iPhone 8, di cui sempre i figli comunque ammettono si può fare tranquillamente a meno. E adesso sentiamo dal padre i temi di questo confronto. Buonasera ad Aldo Cazzullo. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Papà Cazzullo, partiamo da un tema che naturalmente interessa molto gli ascoltatori, perché ne se ne è parlato molto in questi giorni. Allora, questi smartphone a scuola li portiamo o no? Avete discusso anche di questo tema nel libro scritto con i suoi figli? Beh, il libro si intitola Metti via quel cellulare, e quindi è ovvio che io sono contrario all'uso degli smartphone in classe. Beh, i miei figli mi rispondono che a volte è capitato che fossero invece utili, che magari non so, il libro non avesse una poesia, un'immagine di una statua greca, e allora l'hanno trovata online. Questo naturalmente è positivo, dipende anche molto dagli insegnanti. Io non credo possa essere un ministro a decidere se usare o no i tablet o lo smartphone in classe. Devono essere i presidi, i direttori didattici, gli insegnanti, in accordo con gli studenti. Certo, poi gli studenti devono avere sul display la poesia e non il videogame. Le sue perplessità da cosa nascono? Beh, dal fatto che sta cambiando proprio non soltanto il modo di comunicare, ma il modo di vivere. Per stare a scuola ci sono dei compagni di banco che non riescono neanche più a parlare guardandosi negli occhi, e comunicano tra loro via WhatsApp con le faccine. Le vacanze non sono più vacanze, le cene in famiglia non sono più cene in famiglia, sono una battaglia impari persa in partenza contro il cellulare. Però il libro non è un predicozzo o un'invettiva, è un dialogo. I miei figli, Rossana e Francesco, mi rispondono, mi dicono: papà, il cellulare a volte è anche un alibi per voi genitori, che non riuscite più a parlare con i figli, quindi mettete loro in mano il cellulare, un po' come voi da piccoli venivate messi davanti alla televisione. Un tema sul quale discutete con i figli e sul quale non siete d'accordo è la sua idea che il cellulare in qualche modo sia il simbolo di un fenomeno che avanza, cioè il narcisismo di massa, lei scrive. La figlia soprattutto contesta questa immagine. Beh sì, il mio timore è che noi si viva con lo specchio in mano e l'immagine su cui siamo chini è sempre la nostra. le ragazzine non hanno più lo specchietto nella borsa come quando eravamo ragazzi noi per controllare il sorriso o il trucco, si specchiano nel cellulare, ma peggio ancora, tutti vogliono far sapere quello che pensano, quello che mangiano, quello che sognano, filmano, questa mania di fotografarsi, di fotografare, postano, twittano, linkano, affidano alla rete anche le loro cose più private, più intime, fiduciose del fatto che tanto sono amici, no? Parola ingannevole, ma la rete non è buona. E lì Rossana mi risponde: guarda papà, la rete non è né buona né cattiva, e siamo noi che costruiamo la rete, renderla umana sarà, loro dicono, il compito della nostra generazione, noi faremo lavori che oggi non esistono o che non abbiamo ancora i nomi per chiamare. Diciamo che loro mi hanno reso un po' meno pessimista, all'inizio il dialogo è piuttosto serrato e anche duro, poi man mano che si va avanti si discute del bullismo in rete, degli youtuber, della politica, di come sta cambiando la vita grazie al cellulare, allora ecco che le posizioni un pochettino si avvicinano, a volte io mi ritrovo a dare ragione a loro e a volte i miei figli si ritrovano a dare ragione a papà. Uno dei temi generali di cui avete discusso e che in qualche misura sintetizza un po' il vostro lavoro è il modello di famiglia che emerge, cioè lei stesso sottolinea, ma anche i figli, come stia finendo un modello di famiglia tradizionale, insistete su questa questione. Ecco, in che senso questo fenomeno sta modificando radicalmente il modello della famiglia? Beh, l'educazione non passa più né dal genitore né dalla scuola né tantomeno dal prete, ma dallo smartphone, dalla rete, perché poi il telefonino è la porta d'accesso alla rete, è il trampolino da cui i bambini vengono gettati fin da piccoli nell'oceano della rete, perché poi i miei figli hanno 20-17 anni, non sono i veri nativi digitali, abbiamo giocato a nascondino prima che la PlayStation, hanno imparato a leggere e scrivere prima che usare l'iPad e l'iPhone, i veri nativi digitali avranno una vita che io non oso neanche immaginare, una vita in cui la realtà virtuale, quella vera, rischiano di essere confuse. Noi da ragazzi avevamo la noia, la fantasia, la memoria, avevamo il tempo. I ragazzi sono immersi nel vortice della rete come cresciuti nella ruota e non sanno più annoiarsi, non sanno più fantasticare, non sanno neanche più memorizzare, tanto c'è Wikipedia. Però è tornando alla famiglia, è saltato proprio il meccanismo di trasmissione della memoria tra le generazioni. Per questo io conto molto non soltanto sui genitori ma anche sui nonni, perché l'amore a cerchio di vita tra nonni e nipoti è meraviglioso e dobbiamo far sì che i nonni tornino a parlare con i nipoti. Però anche lì i miei figli mi rispondono: guarda che noi abbiamo appena fatto una chat con le nostre nonne, perché le nonne hanno imparato a usare WhatsApp, i nonni no, ma come noto le donne sono più sveglie, e quindi i miei figli su questa chat che si chiama Nonne alla riscossa dialogano tutti i giorni appunto con le loro nonne. In questo nuovo mondo lei teme la fine della cultura o quantomeno la coriandalizzazione, come scrive, su questo tema quali sono le vostre opinioni? Ma io sono molto preoccupato perché vedo che secoli di arte, tutto quello che l'uomo ha fatto, pensato, scritto, viene fatto a pezzi e appunto gettato in aria come coriandoli. Tutto, libri, giornali, film, stessa televisione, la ritrovi a pezzetti su YouTube e sul telefonino. Però Rossana mi risponde: guarda papà, che i coriandoli appunto arrivano dappertutto. E quindi oggi magari un articolo di giornale o anche un libro è più letto di quanto non fosse 20 anni fa, il che è vero. Però apparentemente è tutto gratis. Di sicuro l'autore del libro del giornale non arriva nulla. Però in realtà neanche per i nostri figli nulla è gratis, perché c'è un prodotto che viene comprato e venduto, siamo noi. La rete sa tutto di noi, sa se ci piacciono le bionde o le brune, o i biondi o i bruni, sa dove andiamo in vacanza, sa che cosa compriamo, e ogni volta che compriamo qualcosa online viene fuori la scritta «forse potrebbe interessarti anche quest'altra cosa». E i padroni della rete sono anche i padroni delle anime. È la prima rivoluzione, quella digitale, in cui i padroni sono anche i buoni. Della rivoluzione industriale i padroni erano i cattivi, gli sfruttatori, i capitalisti. Adesso invece noi baciamo la mano, noi dei giornali per primi, a Zuckerberg, a Bezos, a Gates, i padroni delle anime che pagano malvolentieri le tasse, almeno in Italia, che distruggono, creano posti di lavoro, ma sono molti di più quelli che distruggono. Pensa a Amazon, quanti posti di lavoro distrugge, quante piccole librerie hanno chiuso per colpa di Amazon. Però questi, la storia non la fermi con le mani, però proprio baciare queste mani che stanno cancellando il lavoro, che stanno cambiando in modo così radicalmente, non sempre è meglio il nostro modo di vivere, mi sembra un po' eccessivo. I suoi figli per esempio in quei personaggi vedono dei modelli di grande innovazione. Beh, ad esempio Rosana e Francesco mi rispondono citando, raccontandomi la storia di Steve Jobs. Io non avevo letto il libro di Steve Jobs. Beh sì, certo, un ragazzo abbandonato dai genitori che riesce a avere un'intuizione geniale, che i computer non sono fatti soltanto per la NASA o per le grandi aziende, possono essere rimpiccioliti la dimensione prima di personal computer e poi di telefonino. Beh, certo, è una storia straordinaria. È un Cristoforo Colombo, è un pioniere della nostra epoca. Io però ho conosciuto Bill Gates, invece, l'ho intervistato e mi ha molto deluso. Io pensavo di trovarmi davanti a una sorta di moderno Leonardo da Vinci. È una persona che parla sempre di soldi, è un businessman, certo ne ha fatti molti, li spende bene, fa beneficenza, però insomma non è Leonardo da Vinci. Ma che idea si è fatto lei, parlando con i suoi figli a fondo di questi temi, sulla generazione di quei ragazzi? I suoi figli sono rappresentativi col buon senso di cui danno prova l'intelligenza in questo libro, oppure risentono naturalmente del clima familiare in cui sono cresciuti, dell'educazione che hanno ricevuto? I miei figli sono molto indipendenti dal punto di vista intellettuale, infatti mi contrastano con forza, a volte anche con rudezza. Sono stati molto sfidanti nei miei confronti. In questo senso io penso che siano davvero rappresentanti, più che essere i miei figli, sono rappresentanti della loro generazione, sono figli del loro tempo. E penso che sia un dialogo in cui tanti padri, tanti figli o tanti genitori, tanti nonni e tanti nipoti possano riconoscersi. Un dialogo che mi piacerebbe continuasse nelle case dei lettori, e perché in fondo nessuno di coloro che leggerà questo libro sarà per me un estraneo, perché è un libro sulla mia famiglia, sui miei figli, sulla loro generazione e sulla nostra vita. Grazie ad Aldo Cazzullo, autore, con Rossana e Francesco, di Metti via quel cellulare. Buona serata. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Uno dei temi affrontati da Cazzullo, naturalmente, che è quello dell'informazione, è al centro del libro di Francesco Nicodemo, che è un esperto di comunicazione, un campo per il quale ha lavorato anche con Matteo Renzi, che ha scritto Disinformazia, la comunicazione al tempo dei social media, pubblicato da Marsilio, 240 pagine, 16 euro. L'autore ridimensiona molto le illusioni nate con internet e poi con i social, illusioni secondo le quali questi nuovi mezzi ci avrebbero resi padroni artefici dell'informazione. In realtà, spiega, l'informazione tradizionale ha molto da dire, a partire da un mezzo così antiquato apparentemente come la televisione. I nuovi canali, spiega l'autore, ci danno soltanto l'illusione della libertà, perché il web si sta sviluppando per diventare, scrive, un luogo sempre più modellato in base alle nostre esigenze, grazie alla diffusione degli algoritmi che orientano, spiega, le informazioni, fornendoci spesso una lettura univoca e confermando convinzioni magari errate già maturate in precedenza. Risultato di questa situazione è che l'individualità di ciascuno, scrive l'autore, viene sacrificata in nome del desiderio di unirsi al rumoroso coro del web, all'interno del quale la voce individuale si somma a quella degli altri, sempre più estrema ma allo stesso tempo indistinguibile e irrilevante. Naturalmente tutto ciò ha un forte impatto sulla politica, sul sistema dell'informazione. E un recente sondaggio ha anzi dimostrato, ci ricorda l'autore, che molti operatori dell'informazione guardano ormai con una paradossale fiducia proprio al fenomeno delle bufale. Perché? Perché questo fenomeno costringerà l'ambiente giornalistico a dare prodotti sempre migliori. E qui nel libro si parla anche delle iniziative che si stanno sperimentando proprio per arginare fenomeni come l'odio in rete, le bufale e le fake news. E adesso ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Popolo dei già svegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole e degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, tutti i giorni alle 6.30 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Prendo adesso spunto da due mostre che sono in corso in Lombardia. La prima ancora si deve aprire, per la verità. Si aprirà sabato prossimo a Brescia, al Museo di Santa Giulia. Durerà fino al 14 gennaio ed è dedicata a Lawrence Ferlinghetti. La mostra è curata da Luigi Di Corato, Giada Diano e Melania Gazzotti. Ed è dedicata appunto a questo grande scrittore americano, un protagonista della cultura americana, il cui padre Carlo, che morì prima che nascesse lo scrittore, compositore era proprio di Brescia. L'interessato, l'autore Lawrence Ferlinghetti, è giunto alla venerabile età di 98 anni e, come dicevo prima, è stato uno dei protagonisti e ispiratori della cultura beat. È stato un poeta, nel suo libro A Coney Island of the Mind del 1958 è una delle raccolte di poesie più vendute al mondo, la potete leggere nella traduzione di Damiano Abeni e Moira Egan, pubblicata da Minimum Fax, 252 pagine, 13,50 euro, ed è stato Ferlinghetti anche un grande famoso editore a San Francisco. E la complessa personalità, il ruolo di questo autore americano, così importante per gli Stati Uniti e non soltanto, sono ricostruiti nel libro Scrivendo sulla strada, dello stesso Ferlinghetti, diari di viaggio e di letteratura, pubblicato dal Saggiatore, 524 pagine, 42 euro, curato dalla stessa Giada Diana con Matthew Gleason, tradotto da Giada Diano. Questo libro raccoglie le pagine di Ferlinghetti dedicate a partire dal 1969 al tema del viaggio e ai suoi viaggi, un tema che lo ha spesso portato in Europa, che l'autore considera ormai come la sua seconda casa, anche perché la mamma di origine a sua volta era francese. E in questi viaggi, naturalmente, Ferlinghetti torna spesso in Italia per cercare le radici familiari, una ricerca che non fu facilissimo, come testimonia questo episodio che capitò allo stesso Ferlinghetti il 12 ottobre del 2005 proprio a Brescia, che lo scosse molto e che così descrive. Francesco Cons ha un buon occhio per la pubblicità. Infatti, quando sono andato a Brescia per vedere in quale casa fosse esattamente nato mio padre, ha mandato con me un cameraman. Trovato l'indirizzo in un quartiere malandato, ho bussato e bussato alle porte del condominio, ma non ho ricevuto nessuna risposta. Alla fine, un uomo basso con i pantaloni calanti, che portava un radiatore di qualche tipo, ha aperto una porta e ha cominciato a urlarci contro nel dialetto locale. «Artisti parassiti! Artisti parassiti!» E ci ha detto di portare il culo lontano da lì. Lo abbiamo assecondato, ma sulla strada di ritorno verso il nostro furgoncino ci si è avvicinata una macchina della polizia e ci ha chiesto di metterci contro il muro mentre ci controllavano i documenti. Era chiaro che quei poliziotti non sapessero cosa fare di noi, così hanno telefonato a qualcuno per scoprirlo. Nel frattempo il mio cameraman ha ripreso l'intera scena, con me contro il muro, e ha immediatamente mandato il filmato a tutti i quotidiani più importanti. Come era prevedibile, il giorno dopo i titoli di testa recitavano «Poeta italo-americano arrestato mentre cerca il padre», eccetera, sul Corriere della Sera e sul Manifesto, tra gli altri. Ma naturalmente nel libro troveremo molto altro, per questo è un libro significativo, per avvicinarsi a un personaggio che è stato negli Stati Uniti un'icona per le generazioni degli anni 60 e 70, per la Beat Generation, ancorché l'interessato, spiegano i curatori, non si consideri un beat, ma piuttosto testimonia un'ampia scena di fermento letterario d'avanguardia e poesia del dissenso. La testimonianza di un altro artista, questo un pittore, che svolse un ruolo cruciale nell'America degli anni 60, è Philip Guston, vissuto tra il 1913 e il 1980, canadese di origine, nato come muralista, poi protagonista della scuola di New York. La figlia ne traccia il ritratto in Night Studio, un ritratto intimo di Philip Guston, è pubblicato da John e Levi, 192 pagine, 31 euro, scritto dalla figlia Musa Mayer e tradotto da Irene Inserra e Marcella Mancini. L'autore forse non è notissimo in Italia, ma ha avuto un ruolo molto importante nell'arte, nella pittura degli Stati Uniti, che all'inizio aveva guardato con sospetto alla scelta figurativa dell'artista, il quale a sua volta ebbe pessimi rapporti, soprattutto in certi momenti, in certe fasi della sua vita, col mondo delle gallerie e con quello dei critici. Alla fine degli anni 60 avviene una svolta nel percorso dell'artista. Il pittore si trasferisce con la moglie in un luogo che è stato a sua volta un'icona della cultura beat, cioè a Woodstock, dove la sua arte ricomincia da zero, come scrive la figlia, con degli esiti che all'inizio furono anch'essi molto sfortunati. Sembrava, scrive l'autrice, che i critici fossero infastiditi soprattutto dal fatto che Philip avesse scelto di rimanere lontano dagli sconvolgimenti stilistici della scena artistica. La consacrazione definitiva dell'artista sarebbe poi avvenuta in una grande mostra nel 1980 che si svolse a San Francisco, poche settimane prima della scomparsa di Guston. Un viaggio nell'inquietudine degli Stati Uniti di oggi sono invece le storie raccontate anch'esse come frutto di una lunga peregrinazione alla Ferlinghetti da Roberto Festa, che è un giornalista e che ha scritto L'America del nostro scontento, Eleutera, 182 pagine, 15 euro. Festa inizia per scrivere un libro su quelli che a lui parevano essere i risultati positivi, i fasti di Obama, e si ritrova negli Stati Uniti di Trump. Il mondo gli crolla addosso. Quello che pareva, scrive, un viaggio relativamente tranquillo verso il futuro si è trasformato in un percorso accidentato che non fa vedere il futuro. E questo evento, naturalmente, l'elezione di Trump, fa cambiare la prospettiva all'interno della quale leggere i fatti. Trump non è un caso, secondo lo scrittore, ma rappresenta un fenomeno che conferma una delle tante possibilità della storia. E quello che colpisce nel viaggio di Festa è il dover ammettere che l'America che ha creato Trump, così scrive, non è poi troppo diversa da quella che ha prodotto Obama. Trump, aggiunge, ha vinto esaltando paure e voglia di riscatto dell'America bianca, soprattutto di una parte di quei maschi bianchi stufi di essere chiamati razzisti, stupidi e volgari. Donald Trump e Barack Obama, conclude, sono la punta dell'iceberg di un paese spaccato. E allora troviamo qui queste storie raccolte tra il 2015 e il 2017. La prima parte è scritta sotto l'emozione appunto dell'elezione di Trump, e qui è significativa la testimonianza di un'amica di Festa, Mara, che è un'attivista dell'ala più di sinistra dei democratici, che spiega così il successo di Trump. Sai perché Trump è bravo? Non perché è un businessman o un uomo che incarna l'anelito americano al successo e altre cagate del genere, no. Trump è bravo perché riconosce la possibilità dell'infelicità. È una cosa alla quale gli americani non sono abituati. L'ipocrisia americana è pensare che l'infelicità non ci riguardi. Trump se ne fotte e ce la sbatte in faccia. Poi troviamo altri due capitoli dedicati a tre storie raccolte in tre luoghi simbolo della vita americana, con episodi che riguardano il Ku Klux Klan nel 1964, la testimonianza della fine dell'industria in molte aree ex industriali degli Stati Uniti e la diffusione della droga, nonché la reazione furibonda da parte di molti americani all'aborto. E infine, conclude il libro, una settimana a New York dominata da molti dibattiti sul mondo gay. Torniamo alle nostre mostre lombarde con una di carattere storica che ha sede a Pavia, al Castello Visconteo, dedicato, questa mostra è dedicata ai Longobardi e la passerà poi a Napoli, a San Pietroburgo. La mostra è curata da Gian Pietro Brogiolo e Federico Marazzi, il catalogo è di Schirà e intende offrire un quadro il più completo possibile su un popolo e una civiltà che ebbe in Italia Pavia la capitale e nel Ducato di Benevento l'altro polo di riferimento che cercò di mantenere e trasmettere l'eredità di Pavia che era stata conquistata nel frattempo da Carlo Magno. Per visitare la mostra può essere utile il volume di uno studioso del Medioevo e dell'Università di Salerno, si chiama Claudio Azzara e ha scritto I Longobardi per il Mulino, 124 pagine, 11 euro. L'autore ci spiega qui l'origine di questo popolo, ne segue le tracce delle migrazioni, studia l'organizzazione del territorio dai Longobardi controllato e naturalmente le testimonianze in Italia. Noi siamo spesso viziati dal considerare semplicemente dei barbari i Longobardi, la cui traiettoria è per di più spesso stata tradita da una lettura per così dire politica di quel fenomeno, per esempio Manzoni e il Risorgimento dava dei Longobardi un'immagine come di un simbolo della resistenza agli Asburgo, ma anche Niccolò Machiavelli poté scorgere, scrive l'autore, nella fine del regno dei Longobardi per iniziativa dei papi e dei loro alleati franchi l'occasione mancata di una possibile unificazione politica della penisola proprio sotto i re Longobardi. Perciò il libro e la mostra sono due ottime occasioni per rimettere a fuoco un'importante esperienza storica e scoprire un patrimonio artistico spesso sorprendente. E a questo punto il confettino. La vicenda dei Longobardi ci ricorda che invasioni e immigrazioni non sono certo una novità nell'Italia di oggi, e per leggere proprio questi fenomeni, ma soprattutto le conseguenze di questi fenomeni sulla società contemporanea, è utile anche ai più piccoli il libro di Pascal Herlen e Gaël Duasé, che si intitola Il mondo in una casa, tradizioni diverse sotto lo stesso tetto, pubblicato da Electa Kids, 19,90 euro, tradotto da Francesca Cosi e Alessandra Repossi. Questo libro è fatto a schede costruite su quattro piani che corrispondono ai piani di una casa nella quale vivono quattro gruppi, quattro famiglie di culture e religione molto diverse. Al pian terreno abbiamo un negoziante ateo, al primo piano una famiglia cattolica di colore, al secondo una famiglia ebrea, al terzo una famiglia musulmana, e le varie schede intercambiabili ci fanno entrare all'interno delle case, delle abitudini, in particolare quelle religiose, che ci aiuteranno i giovani lettori a conoscere e a rispettare culture, sensibilità e religioni diverse. E con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.